informare i nostri ascoltatori di prepararsi, di tenersi pronti, perché fra un po' magari lavoriamo un attimo con loro. Magnifico, no? Cantiamo. E anche. Quindi, beh, cantiamo, facciamo qualche esercizio. Quindi sì. Cercate di mettervi tranquilli, se avete una cintura stretta la slacciate, insomma, state comodi, mettetevi comodi. E io concordo molto con quello che ha detto la dottoressa Cantarella. E difatti nei miei workshop incontro spesso, io gli chiamo voglio bene alla mia voce, proprio perché voler bene alla propria voce vuol dire saperla riconoscere ed accettare come parte di sé, in quanto spesso arrivano delle persone con delle voci, appunto come dice lei, gracchianti, eccetera, ed è molto delicato. Si potrebbe aiutarli a superare questa voce, ma spesso questa voce è il risultato di una serie di difese che questa persona si è costruita nel corso degli anni, e ci vuole una grande sensibilità anche per togliere queste difese. Bisogna condividere con la persona queste cose. Sì, ci sono delle voci stonate rispetto alla persona che, no, al proprietario della voce. Ci sono uomini grandi e possenti che magari hanno delle voci molto sottili, o donne al contrario. Quindi insomma, la voce è vero, parla, noi parleremo della nostra voce, ma prima, insieme a Carmelo Lauricella, abbiamo deciso di mandarvi la nostra scheda che ci aiuta in qualche modo a raccogliere le informazioni importanti e quindi a chiamare subito il nostro numero verde 824 0024. Quante volte negli ultimi mesi sei rimasto rauco o senza voce? E per quanto tempo? La tua voce ha perso tono e volume? Ti sembra più piatta, monocorde, stanca? Hai bisogno di schiarirti spesso la voce? Quando parli ti capita di avvertire bruciore alla gola o un senso di tensione al collo? Ti sembra che ti manchi l'aria? 824 0024, parliamo della nostra voce, parliamo di noi al messaggi 349 238 6666. Una mela al giorno. E adesso voltiamo pagina, dalla voce passiamo al mal di testa, un problema che ahimè riguarda ben 8 milioni di italiani. Dal Migraine Day 2009, che mette a confronto i maggiori esperti nazionali e internazionali del tema, arrivano nuove scoperte sulle cause e sulle nuove strategie di cura. E noi abbiamo l'onore di avere in linea il professor Lorenzo Pinessi, Vice President della Società Italiana. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno. E soprattutto ordinario di neurologia, direttore della clinica neurologica seconda. Professor Pinessi, mi fermo con le qualifiche, perché sennò facciamo notte, ma ricordo che è direttore del Centro Cefaleo Università di Torino all'ospedale Le Molinette. Professore, allora, lei con tutte queste qualifiche, ma soprattutto con tutto questo lavoro, ha segnato con il suo gruppo di lavoro e di studio una svolta nel mal di testa, perché ha dimostrato per la prima volta al mondo che l'emicrania non è solo un sintomo, ma è una vera e propria malattia. Malattia presente fin dalla nascita. Professore. Sì, è presente fin dalla nascita, nel senso che vi è una predisposizione geneticamente determinata, cioè derivata dai genitori, da uno o da entrambi i genitori, che comporta poi nel corso dello sviluppo, della crescita, qualche volta già da bambini piccoli, sì, altre volte in adolescenza o in età più adulta, sui 20 anni, comporta poi l'esplosione di crisi di emicrania che possono anche essere molto severe, possono anche cronicizzarsi per determinare poi una vera e propria malattia emicranica. Questa predisposizione è geneticamente determinata e noi abbiamo, per la verità non recentemente, ma abbastanza comunque recentemente, nel senso di un anno o due fa, dimostrato con particolari tecniche di indagine che il cervello degli emicranici presentava in alcune aree una piccola anormalità rispetto al cervello delle persone non emicraniche. E l'attività di ricerca del suo gruppo, professore, non si è fermata, anzi direi che ha fatto molta altra strada in questi anni. E proprio in questi giorni sono stati presentati nuovi studi che hanno dimostrato uno stretto legame tra emicrania e depressione. Professore, certo che il dolore alla testa deprime, ma voi avete scoperto qualcosa in più? Sì, il dolore alla testa ovviamente deprime. Però noi abbiamo constatato clinicamente, e questo per la verità è stato un po' constatato anche da altre parti dove si curano le persone con mal di testa, questa osservazione clinica diciamo che è nota ed anche frequente, cioè gli emicranici sono particolarmente depressi, ma soprattutto le persone depresse, quelle con depressione maggiore o depressione endogena, sono persone che sviluppano molto di più il mal di testa, cioè l'emicrania, rispetto alla popolazione generale. Quindi c'è un link clinico, un legame clinico fra le due patologie. Non si tratta solo di depressione reattiva, come diceva lei prima. Chi ha mal di testa ovviamente è un po' depresso, è naturale, ma bensì è un legame diciamo endogeno, precostituito tra depressione ed emicrania. Questa constatazione clinica poi ha fatto sì che i nostri studi dimostrassero anche, e i lavori sono in corso di pubblicazione su due prestigiose riviste internazionali e non ancora pubblicate. Quindi questa è un po' un'anteprima, professor Pinesi. Sì, un po' un'anteprima, sono però, contenta. Però in realtà i risultati di questa ricerca non posso comunicarli adesso, proprio no, perché sono coperti, certo, da embargo informativo, fin tanto che il lavoro non sarà pubblicato, penso, nei prossimi mesi. Mm. Professore, a proposito di associazioni, ne avete trovato un'altra tra emicrania e malattie allergiche, quindi asma, rinite allergiche, eczema atopico. Sì, sì, sì. In effetti l'emicrania è in comorbidità con diverse patologie, la sì, depressione e l'ansia la più frequente. Poi vi è l'epilessia, vi è a volte l'ipertensione, diverse patologie, fra cui c'è anche la malattia allergica, e questo è stato l'oggetto dei nostri studi circa 3 anni fa, quando pubblicammo su delle riviste internazionali del campo come Dengue e Cefalalgia, pubblicammo i risultati dei nostri lavori, dove si dimostrava che le persone con emicrania, con mal di testa quindi primario, avevano una particolare suscettibilità e avevano una overexpression, una esagerata presenza di citochine pro-infiammatorie. E quindi c'era questa diciamo loro costituzione, che faceva sì che la comorbidità con malattia allergica fosse discretamente frequente. Questo ha comportato che taluni pazienti emicranici che hanno anche problemi allergici tipo bronchite allergica eccetera vengono trattati con dei farmaci immunomodulatori, migliorando sia la malattia allergica e sia l'emicrania. Antonella, professor Pinesi ci ha scritto un SMS, dice: il lavoro della squadra del professor Pinesi dimostra che i guai non vengono mai da soli. Ecco, però è vero, ma gli studi del professor Pinesi e della sua equip hanno, come ha sottolineato il professor Pinesi, dimostrato anche che, conosciuto meglio il meccanismo, si riescono a trovare delle strategie di cura più personalizzate. Sì, certamente, le strategie di cura devono essere molto personalizzate, perché oserei dire, esagerando magari un po', che non vi sono due emicranici esattamente uguali fra di loro, e tante volte la stessa emicrania si presenta con delle modalità cliniche di esordio, di durata, di quantità di dolore, in maniera diversa nella stessa persona. E non è raro trovare delle persone che dicono: ma io ho diversi mal di testa. Invece quasi sempre si tratta della malattia emicranica che si presenta con sfaccettature diverse e quindi gli approcci terapeutici sono necessariamente molteplici, non ce n'è uno solo, sono molteplici. Professor Pinesi, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Prego, arrivederla, buongiorno, prego. Pronto soccorso. La usiamo per convincere, per attirare l'attenzione, perché no, anche per affascinare il nostro interlocutore. Oggi parliamo di lei e quindi di noi, perché oggi parliamo della nostra voce all'800-24-0024. Salve Nicoletta, ci scrive Fabio da Cantù. Spesso quando parlo tanto mi manca l'aria. Un problema, la parola è il mio lavoro. Dottoressa Cantarella, quando manca l'aria, noi l'abbiamo messo anche nella nostra scheda. Che cosa significa? Ma può voler dire che il nostro Signore non utilizza bene la respirazione nel parlare, non ha, come si suol dire in gergo, una buona coordinazione pneumofonica. Tendiamo un po', forse per lo stress, perché siamo precipitosi nel parlare, ad utilizzare una respirazione non adeguata, a non

di elementi, oso dire, quasi anche esteriori. Non voglio essere frainteso, la voce non dice a un cieco il colore degli occhi o il colore dei capelli, ma sicuramente dà tanto e dice tanto rispetto ai lineamenti, probabilmente anche i lineamenti facciali, che alla fine sono espressione di quello che sei, no? Quindi l'esempio che faccio sempre, uno non potrebbe come dire, tradire il proprio stato d'animo, a meno che non sia un attore affermato, insomma, usando un tono di voce, e magari il pensiero, stato d'animo è contraddittorio in sostanza, certo. Quindi una voce triste chiaramente determina, mentre possiamo abbozzare una faccia di circostanza. Allora Franco, noi ci conosciamo da tempo, quindi non posso chiederti la prima impressione. Evidentemente è stata una buona impressione reciproca quella che poi ci ha fatto diventare amici per tutti questi anni. Io ti ringrazio molto, io credo che i radioascoltatori apprezzeranno e si faranno tante immagini di immaginazione e creatività sulla tua persona, su chi è la signora Nicoletta, com'è la signora Nicoletta Carbone, soprattutto dal punto di vista caratteriale, non tanto esteriore, e la bella voce degli ospiti che hai. Permettimi di, in studio in questo momento, permettimi di dire che riprendendo la dottoressa Cantarella, noi nelle nostre attività, tu mi hai presentato come coordinatore di Dialogo nel Buio, io riscontro nel pubblico, nel pubblico eterogeneo, nei visitatori che ci fanno visita a questa mostra che è all'Istituto dei Ciechi in Via Vivaio 7, un'importanza incredibile. Noi stiamo lavorando con le scuole, abbiamo tantissime scolaresse che vengono a trovarci, e il lavoro che non si fa proprio sulla voce, perché in assenza della luce, quindi in una dimensione non usuale che è quella del buio, chi non è abituato effettivamente fa fatica. Allora è chiaro che devi imparare a modulare, a non sovrapporti all'altro, ad ascoltare, e diventa un'esperienza davvero importante per i ragazzi, per gli insegnanti, per le famiglie. Facciamo formazione aziendale e cenare al buio è una bella prova di voce. Sì, è veramente un'esperienza, direi, molto molto intensa. Franco, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a voi. Andiamo a Lorena, che ci chiama da Udine. Lorena, buongiorno. Buongiorno. Rapidamente, perché siamo in chiusura. Sì, una domanda sola. Nonostante molti trovino la mia voce gradevole, rilassante, eccetera, se intono una nota si increspano anche i vetri. Perché stonata? Sì, parecchio. Quindi, maestro Casanova, sarà possibile cambiare questo? Lorena, intanto se diventa mamma può andare a cantare con il maestro Casanova, con le voci nove, ma si può diventare, voi dite sempre di sì, ma uno molto stonato può diventare intonato? Questa è un'antica diatriba, se esiste lo stonato, se non esiste, e se invece siamo tutti intonati, semplicemente dipende dalle prime esperienze che facciamo nella vita. Sicuramente dovrebbe affidarsi alle mani di un esperto per un breve percorso. Sì, e quindi alla fine ce la può fare, sì. E noi ce la facciamo anche questa volta a collegarci col dottor Fabio Firenzuoli, direttore del centro di medicina naturale dell'ospedale San Giuseppe di Empoli. Buongiorno dottor Firenzuoli. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Dovevo articolare bene, perché sennò la dottoressa Cantarella, che mi sta guardando, che abbiamo parlato di voce a 360 gradi uscendo, poi mi tira le orecchie. Allora, invece, dottore, noi veniamo da lei perché voce sforzata tante volte può dare mal di gola, ma a metterci lo zampino sono anche questo tempo, no? Il freddo, e quindi è facile trovarsi con un'infreddatura. Non parliamo adesso di influenze, ne parleremo nei prossimi giorni, ma proprio, sa, quel colpo di freddo. La natura che cosa ci dà? Abbiamo un minuto per raccontare. Allora un minuto è breve. Comunque sia, diciamo, un rimedio della medicina popolare è certamente il decotto di erisimo, tant'è che viene chiamato anche erba dei cantanti, perché contiene le sostanze fluidificanti, il muco e antinfiammatorie. In realtà la medicina scientifica che studia le piante medicinali consente di utilizzare invece una pianta che si chiama echinacea, sì, e dalle cui radici si ottengono delle sostanze ad attività associativa sostanzialmente antinfiammatoria e immunostimolante che si può assumere sempre su consiglio del medico all'insorgere dei primi sintomi di raffreddamento, raffreddore o influenza. Anche per i bambini, dottore? Sì, anche sui bambini, sempre però su consiglio del medico. Dottor Firenzuoli, grazie, che bella voce tra l'altro che ha il dottor Firenzuoli. Buona giornata. grazie a lei e a voi. E poi anche l'accento toscano che aiuta. Dottoressa Cantarella, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Maestro, grazie. Mi verrebbe da salutarla cantando, ma mi preparo per la prossima volta. Va bene, l'aspetto. Intanto anch'io aspetto voi, come sempre, domani dopo il GR delle 11 parleremo di HIV. Domani è la giornata e quindi aspetto naturalmente la vostra presenza e la vostra attenzione. Se avete da scrivermi, io sono qua. Buona giornata.